Siamo con Gianni Pini di E-Jazz per parlare di Borghi Swing, la scoperta dei borghi più musicali d'Italia. Prossimo a venire. Gianni, benvenuto. Sì, grazie, saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Beh, Ci racconti un po'? sì, abbiamo presentato l'altro giorno la nostra conferenza stampa a Roma l'idea di mettere in rete sette luoghi che corrispondono alla tipologia di borgo, quella tipologia di luogo molto legato al modo di vivere la cultura italiana, questi piccoli paesi ricchi di storia, ben ambientati. E in alcuni di essi anche una ricca tradizione musicale, se ne è parlato molto, addirittura il 2017 è stato l'anno dei borghi, ma oh, da questo nasceva un po' l'idea, ma insieme a tutti questi argomenti perché non parlare anche di musica? E ci siamo ricordati, abbiamo scoperto che molti di questi gruppi vivono delle esperienze musicali molto belle, dall'orchestra di Parga Jazz, che tutti gli anni con il proprio festival organizza e riproduce partiture musicali di autori nuovi con un premio molto importante, Vicchio di Mugello, dove vivono i Funkoff, che con la loro musica di strada hanno arricchito l'Umbria Jazz, ma non soltanto l'Umbria Jazz, alcuni dei festival più importanti del mondo, e tanti altri luoghi dove la musica c'è e ha ben ragione di farsi sentire. Senti, com'è nata la scelta di questi sette festival in particolare? Sì. Italia, che sono poi i festival più rappresentativi, che tutti conoscono, da Torino a Milano a Bologna e tanti altri, insomma, sono tutte le città più importanti. Abbiamo lanciato una call interna dicendo: signori, proviamo a lavorare sui borghi, avete delle cose da proporci? E diciamo le prime che sono balzate all'attenzione portando fatti inconfutabili, hanno costituito il primo nucleo originale di questo progetto che ci speriamo, come quasi si dice sempre in tutte queste occasioni, possa continuare anche negli anni a venire e portare all'attenzione questa realtà. Da che periodo a che periodo? Beh, si inizia il prossimo fine settimana, dove ben due dei sette borghi saranno impegnati nella loro programmazione e saranno in particolar modo Marano Lagunare, una splendida cittadina di mare in provincia di Udine. I nostri soci di Udine Jazz, l'associazione ritmica, saranno gli organizzatori del festival, ma in contemporanea a Vicchio di Mugello partirà l'altra festival etnica dove ci saranno Gino Paoli insieme a Danilo Rea, inaugureranno l'edizione 2018 del festival arricchita da questo progetto in rete che è stata l'occasione di portare nuove importanti proposte musicali. E poi tutti gli altri, tra i mesi di luglio e agosto, Parga Jazz dovrebbe essere l'ultimo, proprio l'ultima settimana di agosto, in maniera da accompagnare l'estate con una nuova proposta che speriamo possa incontrare i gusti del nostro pubblico. Ci racconti anche un po' della tua associazione, i Jazz? Sì, l'associazione di jazz nasce 10 anni fa, 10 anni fa, quando di jazz se ne parlava un po' meno di adesso e sembrava quasi che costruire un'associazione nazionale fosse una cosa un po' da sognatori, ecco, più che da realistici con i piedi per terra. Nel corso degli anni però abbiamo scoperto che si potevano fare tante cose insieme, l'associazione è cresciuta, l'ultimo call riguarda circa 60 soci a livello nazionale e soprattutto è cresciuta la possibilità di fare progetti insieme, grazie anche a una nuova capacità di ascolto che abbiamo trovato nel MIBACT, quel ministero che fino adesso si occupava quasi esclusivamente di musica lirica e sinfonica. Abbiamo trovato degli spazi che ben volentieri abbiamo occupato con la bellissima manifestazione dell'Aquila, dove 600 musicisti per 3 anni hanno portato la loro testimonianza di solidarietà. Con tanti progetti in giro per l'Italia abbiamo riempito di contenuti la giornata del 30 aprile, che è l'UNESCO International Jazz Day, una presenza della musica proprio nei luoghi dell'UNESCO, dalle ville medicee della Toscana ai parchi, al Castello del Monte, in Puglia, insomma, la Reggia di Caserta, tantissimi luoghi che hanno vissuto di jazz, e fra gli altri progetti che stiamo portando avanti anche questo Borghi Swing, l'ultimo arrivato, molto denso di contenuti e di cose, e come dicevo, modo di lavorare che aiuta i festival, aiuta i musicisti a proporre le loro cose e incontra il pubblico con una nuova offerta. Ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più? Ufficiale è Italia Jazz, www.italiajazz.it, ma Purti Swing e Italia Jazz sono anche su Facebook con una pagina molto molto seguita e una continua proposizione di eventi che danno il segno dell'attività che stiamo svolgendo. Benissimo, allora un ringraziamento a Gianni Pini di iJazz per Borghi Swing e ci dai nuovamente le date di riferimento dall'inizio alla fine? 20 giugno al 30 agosto in 7 differenti luoghi: Bagnolo Piemonte, Figgio, Marano Lagunare di Udine, Logro Tondo in provincia di Bari, Barga in provincia di Lucca, Fara in Sabina in provincia di Rieti e Diamante in provincia di Cosenza. Un bel percorso fra il nord e il sud di questa nostra lunghissima Italia. Un abbraccio in bocca al lupo.